Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi, come sempre Sebastiano Barigioni, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda gli approfondimenti e l'attualità, oltre al declassamento ulteriore del voto sul debito del Portogallo, oggi Moody's ha tagliato di nuovo il voto portandolo da A3 a Baa1, al di là delle sigle. Tutto viene messo in discussione sul debito portoghese ed è soprattutto l'incertezza politica ed economica di Lisbona dopo le dimissioni del premier Socrates a pesare sul giudizio dell'agenzia di rating, e quindi che nutrono numerosi dubbi sul piano di risanamento. E tra l'altro il rischio di un default, di un crack del debito portoghese viene è misurato dai cosiddetti CDS, i credit default swaps, ossia quanto costa il premio assicurativo se uno avesse comprato obbligazioni portoghese e volesse assicurarsi, paga un premio. L'aumento di questo premio, un po' come avviene per le nostre automobili, lo diciamo sempre, sta a denotare quanto a rischio sei tu. Allora, il premio pagato per assicurarsi contro il debito portoghese, contro un crack del Portogallo, e quindi per chi ha comprato debito portoghese, ha superato il livello dell'Irlanda, 590 punti contro i 586 dell'Irlanda. Tra l'altro c'è un incontro previsto tra le banche portoghesi e i vertici della Banca Centrale del Portogallo. Questo per quello che riguarda l'economia internazionale. Poi ci sono i dati dell'OCSE, ne parleremo nella seconda ora del programma con il responsabile dell'OCSE. I G7 vanno bene, ossia i sette paesi più industrializzati crescono nei primi tre mesi del 2011 del 3,2% in più rispetto ai primi tre mesi del 2010, ma l'Italia fa più 1,1 e quindi ampiamente sotto la media. E anche per il secondo trimestre di quest'anno, quindi i mesi che vanno da aprile, maggio e giugno, ci si attende una crescita intorno al 3% per i G7 e l'1,3% per l'Italia. Resta il nodo della disoccupazione, ha detto l'OCSE, e comunque il giudizio dell'OCSE è di una ripresa nettamente migliore delle previsioni. Ancora, per quello che riguarda l'Italia nel caso specifico, apprezzati i miglioramenti, ma sostiene appunto il capo economista dell'OCSE Piercarlo Padoan, ha fattori strutturali di debolezza. E poi ancora, sempre per l'OCSE, non dovrebbe arrivare un impatto significativo sull'economia europea da un eventuale aumento dei tassi di interesse. Ancora, altri dati che riguarderanno oggi la vicina Tirrenia. Da un lato c'è una denuncia di rincari sui prezzi dei traghetti per la Sardegna, dall'altro stiamo cercando di capire come si concluderà la privatizzazione della Tirrenia. È rimasto solo una cordata in gara, per cui è un problema a questo punto di trattative e di tempi. Infine parleremo anche delle nomine alle società partecipate dal Tesoro, e quindi Eni, Enel, Finmeccanica, le Poste Italiane, molte conferme. Alcune novità, i presidenti di Eni ed Enel e l'amministratore delegato di Finmeccanica tra le principali novità. Sullo sfondo anche la logica, alcuni l'hanno criticata, altri hanno detto no, ma guardate che è sempre così, quando una società è partecipata dal Tesoro è giusto che le nomine siano tra virgolette di carattere politico, non c'è nulla di strano. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, partiamo con le altre notizie in breve. Iniziamo dalla borsa, più 0,15, poco mosse anche oggi le borse, meno 0,1 Parigi, più 0,15 Milano chiaramente, meno 0,1 Parigi, invariata Francoforte, Londra meno 0,22, invariata l'America. Oggi c'è poco da raccontare complessivamente sulle borse, l'euro è a quota 1,42, tra i titoli anche qui i movimenti non sono di quelli, diciamo, imperdibili. Comunque, per quello che riguarda ST Microelectronics è il miglior titolo, più 2,80%, Fiat più 2, Enel più 1,5, Ansaldo STS più 1,4, Diasorin più 0,90, Azimut più 0,80 come Enel, Green Power e Tods. Parmalat cede qualcosa, il 2,6%, Finmeccanica il 2,3%, Impregilo l'1,7%, Fondiaria l'1,2% di calo, Fiat Industrial meno 1,1%, quindi camion e trattori, Telecom Italia meno 0,70% come UbiBank. L'argento ha toccato nuovi record ai massimi da 31 anni, l'oro è stabilmente a quota 1430, anzi 1436 per la precisione. Il petrolio ha aperto in leggero calo, ma attenzione, dopo il record di ieri al Brent, che ha toccato il livello più alto dall'agosto del 2008, a Wall Street a New York siamo a 108,08 dollari al barile. Nel frattempo una petroliera registrata in Libia, si chiama Equator, ha attraccato nel porto di Marsa e la riga, cioè nell'est del paese, dove, vicino a Bengasi, dove l'area è controllata dagli insorti o da ribelli antigovernativi. La nave ha una capacità di carico di oltre 1 milione di barili di petrolio e al momento non appare carica. Comunque si tratterebbe del cargo destinato a concludere il contratto tra il comitato transitorio, cioè i ribelli, e il Qatar. I ribelli si sono detti pronti a produrre fino a 150 milioni di barili di petrolio al giorno, e questo però prima di subire la controffensiva delle forze fedeli a Gheddafi, quindi Hamas, El Brega e Ras Lanuf. Quanto costano le Pringles, le patatine, quelle nel tubo rosso? Qualcuno se le ricorda? O magari le ha mangiate? Anche recentemente, costano 1,5 miliardi di dollari, non il singolo pacchetto. Ma è quanto Diamond Foods pagherà al Procter & Gamble per il marchio, per acquisire il marchio delle patatine. Praticamente l'operazione porterà alla nascita di un nuovo gigante dello snack. Pagherà in azioni comunque Diamond Foods. Dicevamo delle tensioni sul debito portoghese, attenzione, se 580 non è un 58% di probabilità, è un po' diverso. Comunque, il rischio di insolvenza di Lisbona nell'arco di 5 anni è aumentato del 41%, questo è assolutamente vero. Nel frattempo, dicevo, la banca centrale cinese ha alzato di 25 punti base i tassi sui depositi e prestiti, portandoli rispettivamente al 3,25 e al 6,3%, che è un livello molto alto se si pensa che in Europa siamo all'1%. La Cina da ormai mesi combatte contro i timori di un'inflazione che potrebbe danneggiare l'economia e potrebbe andare fuori controllo. La decisione è infatti stata presa proprio per questo motivo, per combattere e contrastare l'inflazione ed evitare il rischio di bolle speculative. Allora, dicevamo del Portogallo che ha superato anche l'Irlanda come rischio default misurato dai CDS. Nessun effetto domino invece sulle richieste al fondo di emergenza salva stati, anche perché di questo ha parlato soprattutto il ministro delle finanze greco George Papa Costantinou, che da Cernobbio questo fine settimana si è detto abbastanza tranquillo sui rischi per il Portogallo. Lo ha intervistato il nostro Sergio Nava, a maggio dei lavori del workshop Ambrosetti. Sentiamo il suo giudizio sul Portogallo, che, insomma, visto che la Grecia è stata la prima, è un giudizio che ha più di un interesse. I think that each country is a very particular case. Penso che ogni paese sia un caso a sé. Ci possono essere dei trend comuni, ma i problemi della Grecia erano molto differenti da quelli dell'Irlanda, e quelli dell'Irlanda lo sono da quelli del Portogallo. Non penso che dobbiamo pensare al prossimo paese che chiederà gli aiuti europei. Spero che il Portogallo non debba ricorrere al meccanismo salva stati. Ha già annunciato un piano di austerità e di riforme molto coraggioso e difficile. Non penso che ci sarà un effetto domino. Al momento abbiamo due paesi che aderiscono al programma europeo di aiuti e c'è una decisione del Consiglio europeo che ha stabilito l'agenda per il dopo 2013 in un modo molto chiaro. E questo aiuta la Grecia insieme alla decisione di abbassare i tassi ed estendere il periodo di pagamento dei prestiti. Infine, dà allo European Financial Stability Facility la possibilità di acquistare titoli greci nel mercato primario, se necessario, già nel 2012. Ancora due notizie in breve, poi passiamo al primo tema di apertura. Per quello che riguarda l'Italia, al di là delle stime dell'OCSE di cui parleremo più avanti, oggi l'INPS ha registrato un forte aumento o rimbalzo sulle richieste di cassa integrazione a marzo, più 45% rispetto a febbraio. Sono ancora in calo invece rispetto a marzo del 2010, meno 158%. Nel frattempo alcuni lavoratori della Vilnius di Marghera hanno dato vita all'occupazione simbolica di un'isoletta della laguna. Gli operai, oltre ad essere sulla piattaforma di una torre a 150 metri d'altezza, hanno bloccato anche il cancello del petrolchimico. Quattro di loro hanno occupato un isolotto muniti di tenda e sacco a pelo. Domani sono convocati dal prefetto. L'isolotto, volete sapere come si chiama, non è un nome evocativo, diciamo, delle Pantegane, ma ricordo anche che i lavoratori della Vilnius Group è da mesi, se non anni, perché l'azienda ha avuto varie vicissitudini che non possiamo adesso raccontare, ma attendono da mesi di conoscere le sorti dell'azienda e del possibile salvataggio da parte del fondo svizzero Gita. Giovedì scorso l'amministratore delegato di Vilnius Group aveva annunciato di aver avviato il trasferimento del denaro stanziato da Gita sia per la capitalizzazione del gruppo che per il pagamento delle fatture di Vilnius Italia, rendendo così disponibili le risorse per la liquidazione degli stipendi di febbraio ancora non pagati ai lavoratori. E nei prossimi giorni dovrebbe avvenire anche la conclusione del contratto con Sindal, quindi per la cessione di tutti gli asset, tutte le società per il ciclo del cloro. (3) 4 9 2 3 8 6 6 6 6 per gli sms. Adesso il primo tema di questa puntata, collegandolo a una protesta che sta montando su quello che è il costo dei traghetti per la Sardegna. Non è questo il tema, il tema vero è la privatizzazione della Tirrenia, unica privatizzazione di questi anni dopo il monopolio dei tabacchi. Una privatizzazione nata male, è andata avanti peggio, adesso finalmente c'è, almeno è rimasto una cordata interessata. Eh sì, perché per Tirrenia fino adesso, a parte Siremar, che è oggetto di un bando a parte, è quella parte della Tirrenia che garantiva i collegamenti con la Sicilia, dicevo, è arrivata solo un'offerta d'acquisto avanzata dalla cordata di armatori campani Vincenzo Onorato, che vuol dire Mobi Lines, Gianluigi Aponte, Snav e MSC e Grimaldi. Si sono riuniti nella Compagnia Italiana di Navigazione. Avrebbero offerto, secondo indiscrezioni, circa 280 milioni di euro, che sono 100 milioni di euro in meno rispetto al prezzo fissato da Banca Profilo, che fa da advisor, da consulente al Ministero dello Sviluppo Economico. La cosa più importante è che il passaggio di proprietà, deve, quindi la privatizzazione vera e propria, deve avvenire entro aprile, perché ce lo chiede Bruxelles. E anche le linee di credito delle banche arrivano solo fino ad aprile. Le polemiche le sta suscitando l'eventuale vittoria del cordato onorato a Ponte Grimaldi, soprattutto in Sardegna, perché lì già operano collegamenti con l'isola e si teme in sostanza che le sinergie vogliono dire riduzione di collegamenti. Cos'è Tirrenia? Beh, controllata al 100% da Fintecna, 80 navi, 10 milioni di passeggeri trasportati ogni anno, 3.000 dipendenti, 89 tra dirigenti, consiglieri e sindaci. Il costo del lavoro è superiore di un 25% rispetto alle concorrenti private, appunto MSC, Snav e anche Mobilines. Ha debiti, la Tirrenia, per 760 milioni a fronte di un giro d'affari di 630 milioni, però attenzione, di questi 630 milioni 250 sono sovvenzioni pubbliche perché devono garantire i collegamenti con le isole. Negli ultimi 25 anni Tirrenia è considerata l'Alitalia del mare perché ha bruciato 6 miliardi e mezzo di euro di fondi pubblici. Praticamente per ogni biglietto staccato da Tirrenia il costo per la collettività è di 22 euro. E poi è guidata da sempre da un unico, da un amministratore legato che penso che abbia il record a livello italiano di guida di un gruppo, tra l'altro in perdita. Chiedo conferma a Raul De Forcade, che segue proprio i temi marittimi, non è più Pecorini chiaramente l'amministratore legato, ma è stata guidata. Raul De Forcade, buonasera. Sì, buonasera. Del collega del Sole 24 Ore che segue tutti i temi legati al marittima, se così possiamo dire. Sì. Quanto è rimasto in carica Pecorini? Direi 26 anni. 26, ecco, anni, una cosa del genere. 26 anni, una cosa infinita. Sì, vabbè, sì, sì. Almeno lui non c'è più. No, adesso no, c'è il commissario straordinario. C'è il commissario straordinario che deve appunto gestire la privatizzazione. Prima domanda, cosa temono i sardi sulla privatizzazione di Tirrenia? Eh beh, temono di fatto che poi gli vengano in qualche modo un po' sottratte delle rotte che erano le rotte che venivano sovvenzionate con i fondi pubblici e che comunque favorivano in qualche modo il trasporto verso la Sardegna, ecco. In teoria questo non dovrebbe essere perché appunto se si mantengono le convenzioni con lo Stato anche nel privato, almeno per un certo periodo, 8 anni sono previsti, questo dovrebbe essere evitato, ecco. Se l'UE non ci si mette di mezzo, ecco, su questo. Allora, quando c'è solo un'offerta immagino che vinceranno loro, anche perché alternative lo Stato non ne ha. L'offerta però è stata di 280 milioni di euro contro una richiesta minima, diciamo, di Banca Profilo di 380. Sì, in realtà da quello che si evince, ovviamente l'offerta ancora non è pubblica, se ne sanno alcune parti, ecco, da quello che si evince e da quello che un po' emerge il rumor di mercato riguardo a questo, l'offerta potrebbe anche arrivare, diciamo, alla cifra di 380 milioni richiesto, ma a quanto pare il timore di CIN, quello che paventa la società che sarebbe la compratrice, l'unica in realtà ancora ragionevolmente in gara, è che appunto non arrivino queste sovvenzioni statali, su cui ovviamente anche la società privata tiene conto anche la società privata. Se queste non dovessero arrivare, allora ecco che l'offerta andrebbe più bassa, secondo CIN, di quella fissata dall'advisor, ecco, questo è in sostanza, come dire, il pensiero, credo, della società che sta acquisendo. Allora, c'è un ascoltatore che scrive al 349-238-6666, ma chi se ne frega del costo dei traghetti se non possiamo andare in vacanza, se non c'è lavoro non ci sono i soldi. Avrà anche ragione, ci mancherebbe, infatti i temi dell'occupazione sono prioritari e li trattiamo come tali, però attenzione, perché la stangata è in arrivo proprio per quelle famiglie italiane che di solito usano i traghetti, il posto auto e il resto, e non sono di solito tra gli happy few, tra i ricchi e basta. Perché lo dico? Perché secondo la denuncia di Altro Consumo, la vacanza in Sardegna, quanto al raggiungimento dell'isola con i traghetti, diventerà proibitiva, cioè le tariffe, sentite un po', stanno aumentando del 60%. Con punte del 130% rispetto a un anno fa, e nessun risparmio per chi prenota in anticipo. Per cui grandi navi veloci, Mobilines e Sardinia Ferries hanno una media di rincari del 70% tra luglio e agosto sulle tratte Genova-Olbia, Genova-Porto Torres, Livorno-Golfo Aranci. insomma, una famiglia di quattro persone, vediamo se frega qualcosa, almeno mettendola giù così, con auto per il viaggio Genova-Porto Torres potrebbe spendere ad agosto oltre 1000 euro, 400 in più di un anno fa. Penso che freghi adesso. Allora, Rebu del Forcade, com'è sta storia? Mentre si privatizza la Tirrenia, nel frattempo si fanno i cartelli, perché non so, tutte assieme? È vero che questo è quello, è il problema sollevato da Altro Consumo, già a marzo Altro Consumo aveva sollevato questo problema e ora con l'avvicinarsi insomma delle vacanze la cosa si fa più stringente. Ecco, è vero anche però, ed è vero anche probabilmente che il fatto che Tirrenia in questo momento, al di là della gara in corso, sia comunque molto meno un competitor reale. Vabbè, cioè, è congelata, diciamo. Certo, in qualche modo. E allora questo favorisce, chiaro, un aumento dei prezzi, e qui qualche ragione c'è. Però è vero anche che questo aumento dei prezzi in realtà, e questo ne ho parlato direttamente con gli armatori che sono un po' coinvolti in questo, in particolare con l'Onmon di Corsica Sardinia Ferries, ecco, che è uno di quelli chiamati in causa da questa ricerca di Altro Consumo. Ecco, è vero anche che in realtà si sta anche ovviando a un problema di costi altissimi in questo momento per gli armatori, ad esempio a partire dalla crescita esponenziale del costo del carburante. Ecco, questo è un fattore di cui gli armatori devono tenere conto in questo momento, proprio perché è uno delle voci di maggior costo. Sì, però non facessero gli armatori come benzinai e le compagnie petrolifere, cioè il carburante è caro ma non è a record come nel 2008, allora non mi puoi dire che andiamo a pagare più che nel 2008, no? No, è vero, però c'era anche un discorso che in un periodo precedente gli armatori in qualche modo facevano alcune promozioni che in questo momento loro dicono non siamo più in grado di portare avanti. Ecco, questo è il punto di vista, diciamo, degli armatori, che d'altra parte dicono in fondo le nostre tratte non costano poi molto meno di quello che costano altri mezzi di trasporto, insomma. Sì, ho capito, questo, certo, può essere opinabile. Sì, non voglio dire, ho capito che se una famiglia di quattro persone deve andare in Sardegna con l'aereo paga forse di più, ci mancherebbe, però non è quello il principio, perché c'è anche la macchina. Vabbè. No, quello che lascia specie, come sempre in questo paese, ecco perché noi riteniamo che difendere per legge i gruppi privati sia un errore, perché come viene meno un po' di concorrenza, qui ripartono i prezzi. Capitò nella tratta Roma-Milano per l'Italia Air One che ripartirono i prezzi verso l'alto quando si fusero le due compagnie aeree. Qui con Tirrenia sostanzialmente congelati in attesa di sapere chi se la comprerà, che poi sono i tre che dovrebbero fare concorrenza. Io poi non ho capito bene come faranno loro a gestire qualcosa che andrà a fare concorrenza alle loro tratte, però Raul, se poi me lo puoi chiarire. No, cioè voglio dire, si comprano le navi o la smembrano e ognuno si prende alcune navi della Tirrenia, Mobiline prende alcune, SNAV, MSC altre e Grimaldi altre, o se no non ho capito. Bisognerà vedere come va la privatizzazione, appunto, se questo non è ancora chiaro da quello che esattamente faranno. Però certo è che a mio parere alla fine il discorso che comunque preme molto agli armatori è anche quello delle sovvenzioni pubbliche, che gli permetterebbe comunque di avere possibilità di avere appunto alcune tratte coperte, anche quelle meno. No, ma dicevo, insomma, è singolare che nel momento in cui viene meno la concorrenza di Tirrenia, cioè della partecipata dallo Stato, controllata dallo Stato, certo, schizzino i prezzi verso l'alto. Non vorrei che fosse un elemento in meno di concorrenza, per quanto fallimentare, per quanto in perdita, per quanto mal gestita e con dei costi altissimi del lavoro. Però almeno quella, avendo i prezzi un po' più calmerati dello Stato, poteva rappresentare così, no? Un punto. Certo, si rischia di arrivare al paradosso che nel momento in cui arriva la privatizzazione, ecco, in qualche modo, anziché aumentare la concorrenza, la concorrenza in qualche modo termina. Esatto, perché tanto se la comprano gli altri tre e a quel punto, diciamo, tutti fanno cartello e vabbè, poi ci dovrebbe essere l'antitrust in questi casi, speriamo. Diciamo che è un paradosso un po' italiano di quello che è solo in Italia che i cartelli li vediamo nelle compagnie di assicurazione, delle volte nelle banche, nei settori più svariati. È il paese dei cartelli questo. Tra l'altro, comunque, Altro Consumo ha fatto denuncia all'antitrust. Ha ragione un ascoltatore a dire: vorrà ricordare che la Sardegna non è solo la terra delle vostre vacanze, ma noi ci viviamo. Ha ragione. Siamo penalizzati ed obbligati a usare la nave per andare in Europa, voi italiani no, ha proprio ragione, e ci mancherebbe, perché anche se i rincari sono soprattutto a luglio e agosto, quindi colpiscono soprattutto chi ci va per vacanza, ma ha ragione. Grazie a Raul De Forcade, meteo, pubblicità e poi il commento della borsa, e anche però sempre per parlare di italiani del consumo, il settore delle carte di credito, 349-238-6666 per i vostri SMS. Focus Economia. ...17.39 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo, prima di arrivare ai mercati, parliamo delle carte di credito degli italiani. Perché lo dico? Perché oggi, come ogni anno, è stato presentato l'Osservatorio Acquisti Carta Sì, che elabora statisticamente un patrimonio informativo di 1.800.000 transazioni operate con le carte di credito al giorno, in 600.000 punti vendita, con 6 milioni e mezzo di carte di credito. Allora, da questo punto di vista, il punto sulle carte di credito lo fa Natale Cappone, amministratore legato di Carta Sì, al microfono del collega dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, Fernando Mancini, sull'utilizzo delle carte di credito, ma anche sulla diffusione e sulle commissioni applicate. Le tendenze che evidenziamo in questi ultimi 12 mesi sono una crescita del mercato complessivo di circa l'8%, che però è influenzato da fattori anche esterni, quindi nuovi entrati, movimenti tra un emittente e un altro emittente. Noi abbiamo cercato di sterilizzare questo effetto e di concentrarci sulle persone, sempre le stesse persone, che spendono quest'anno e che spendevano lo scorso anno. Se analizziamo solo questi dati, la crescita è di circa il 2%, comunque un saldo positivo. Ci sono meno persone che spendono, ma che spendono di più. Questo sembrerebbe confermare il divario sociale, purtroppo, tra classi più abbienti e classi meno abbienti. La realtà italiana che è in ritardo rispetto alla media europea, c'entra qualche cosa con le commissioni che si rivelano un pochino più alte rispetto al resto del continente? Allora, le commissioni non sono più alte, perché se andiamo a porre le commissioni, prima di tutto le interchange, cosiddette interchange, sono sostanzialmente uguali tra paese e paese. Ci sono alcuni paesi europei in cui le commissioni sono più alte. Ci sono due fattori che non dobbiamo disconoscere. La prima è che le regioni nord-ovest, nord-est e alcune regioni del centro che tengono e superano il passo europeo. Lombardia certamente supera il passo europeo. Ci sono alcune altre regioni, in particolare regioni del sud, in cui si fa un po' più fatica a far sviluppare questo concetto. La seconda è la popolazione anziana, diciamo l'incidenza della popolazione anziana in Italia è particolarmente elevata e sappiamo che non è particolarmente propensa all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. La terza è che purtroppo in Italia c'è un'economia sommersa e certamente questa non favorisce l'utilizzo delle carte di pagamento. Vedo che nel frattempo sono arrivate decine di messaggi sui rincari dei prezzi dei biglietti per la Sardegna. Allora, molti fanno notare che con questi rincari stanno facendo pagare a noi l'acquisto della Tirrenia. Non lo so veramente. A me sembra più che altro il problema sia che se viene meno l'effetto calmiere, l'effetto di raffreddamento sui prezzi della Tirrenia, che pure chiudeva in perdita, tutti quanti poi si posizionano, e comunque mi sembra che il cartello sia abbastanza chiaro, cioè sono tutti cresciuti, non è una compagnia. Alcuni fanno notare che un adulto, un bambino di 3 anni più auto a Pasqua, andate di ritorno Genova Olbia da residenti in Sardegna, 430 euro, non male. E poi che costano molto meno le tratte straniere, la Jugoslavia e anche la Francia, e il rincaro per i traghetti per la Sardegna è da gennaio che è partito ed è aumentato del 150%, scrivono sempre negli ascoltatori. Tra l'altro giustamente fa notare un ascoltatore che la Genova-Palermo costa centinaia di euro in meno rispetto alla Genova-Olbia, anche se obiettivamente cioè, ci sono la metà di ore di navigazione, questo è vero ragazzi, se non possiamo sempre dare la colpa al petrolio che è ai massimi per rincari del 150%, il petrolio non ha fatto più 150% rispetto all'anno scorso, neanche dipinto. E poi appunto ci sono delle tratte che continuano a costare molto meno di quelle profittevoli, lì ci sono le, quelle sono le galline delle uova d'oro, dai. Va bene, facciamo la borsa. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Tu andrai in Sardegna in traghetto? Adesso vediamo, dipende dalle tariffe. Ecco, perché con quello che abbiamo appena scoperto non ti conviene. Comunque, meglio a nuoto. La borsa oggi non mi sembra che sia che siano presenti grossi spunti, però se tu hai un giudizio contrario dimmelo pure. Più 0,20% Milano, invariata Parigi, invariata Francoforte, meno 0,13 Londra, più 0,13 nell'America in questo momento. La vera notizia l'ha fatta l'oro, pochi minuti fa ha toccato il nuovo record storico a New York, 1452 dollari l'oncia, mai così forte nella sua storia. Che l'oro è così forte, giustamente lo ascoltatore mi fa notare che la Jugoslavia non esiste, avete ragione, volevo dire Croazia, Slovenia, Macedonia, tutto quello che volete, mamma mia. Allora la borsa, Livia, Parmalat meno 2,5%. Sì, allora Parmalat ha realizzato la peggiore performance sul FTSE MIB, quindi sul paniere principale, con il mercato che inizia a considerare l'ipotesi di una marcia indietro dei francesi di Lactalis nella conquista dei vertici di Parmalat. Infatti i francesi, che sono azionisti come noto con il 29% del gruppo di Collecchio, stanno valutando le prossime mosse dopo che il governo italiano ha deciso di difendere in tutti i modi l'italianità di Parmalat, rendendo quindi sempre più difficile la scala. Cioè, se ne è accorto oggi il mercato, mi stai dicendo che c'è il decreto salva Parmalat? Come, scusa? Se ne è accorto oggi il mercato che c'è il decreto salva Parmalat? No, assolutamente no, però ci sono state delle indiscrezioni che dicono che i francesi potrebbero abbandonare la partita o tentare, non so, un accordo con l'accordata italiana, visto che comunque la scalata del gruppo si fa sempre più difficile. Quindi perde di appeal il titolo, il mercato in questo caso si entusiasma se c'è un'offerta e poi una controfferta. Finmeccanica meno 2,21. Sì. Allora, Finmeccanica quindi ha realizzato una performance debole all'indomani delle nomine dei vertici, con appunto per Francesco Guarguaglini che è stato confermato. Effetto orso o effetto orsi sulla borsa? Ma può darsi, nel senso che alcuni operatori dicono che la scelta è ricaduta su una persona che era già del gruppo, cioè era amministratore delegato della contratto Gustav Estrand, quindi è venuto meno un po' un effetto di novità, e la nomina di Orsi viene considerata come un segnale di continuità. Ah, quindi bello, sicuramente. Adesso ne parleremo dopo il collegamento di borsa, ci mancherebbe. E in pregiro motivi particolari, meno 1,7? No, allora su in pregiro non ci sono motivi particolari, il titolo ha corso molto dalla chiusura 17 marzo, ha guadagnato 7,9%, potrebbero essere quindi dei realizzi sul titolo. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, il traffico e poi gli altri titoli. Focus Economia. Dicevamo della borsa, giustamente scrive un ascoltatore: dai Barisoni, evita di parlare di borsa, fallo fare solo a Livia che è brava, simpatica e competente. Zitto, me ne sto. E allora ST Microelectronics più 2,90, Fiat più 2%. Sì, allora, la rivelazione, prego. Allora, ST è stata realizzata la migliore performance sul FTSE MIB, ha beneficiato l'andamento positivo di tutto il settore dopo l'annuncio dell'acquisizione di National Semiconductor da parte di Texas Instruments per 6,5 miliardi di dollari e in contanti. La società americana ha offerto 25 dollari per azione, il che significa un premio del 78% rispetto alla chiusura della società acquisita di venerdì, e quindi comunque il mercato premia il settore, quindi anche ST a Milano. Fiat, doppio andamento tra industrial, ossia camion e trattori, e Fiat Auto, più 2%. Io continuo a non capire come mai Fiat Auto cresca nonostante i brutti dati sulle immatricolazioni, buoni quelli di Chrysler, va detto, a Detroit, però insomma ancora vende in Europa e in Italia. Prego. Sì, infatti bisogna dire che appunto le matricolazioni hanno mostrato, delle matricolazioni del lingotto hanno mostrato un calo superiore al mercato, un calo del 31,9%, e dopo l'annuncio il titolo comunque aveva chiuso la giornata seguente sulla parità. Oggi c'è stato un aggiornamento, se così si può chiamare, sulla vicenda Chrysler, nel senso che secondo indiscrezioni il lingotto salirà al 30% di Chrysler nelle prossime settimane. Sappiamo, come appunto ha ribadito Marchionne nel corso dell'assemblea Fiat la settimana scorsa, che l'obiettivo è di salire comunque al 51% entro il 2011, una volta che il lingotto avrà ripagato il debito verso il governo americano. Allora, visto che è il prossimo tema, vi do anche gli altri titoli delle aziende partecipate dallo Stato, dal Tesoro, che hanno visto cambiare i vertici o confermare i vertici ieri in serata. Enel più nel 68%, l'Eni, Terna invariata oggi. Per quello che riguarda Finmeccanica, abbiamo detto Ansaldo STS è una controllata, e infine per quello che riguarda il titolo Eni siamo meno 0,28%, quindi possiamo dire poco mossi tranne Enel, ecco, i titoli, e tranne Finmeccanica. Di questo parliamo dopo aver salutato Livia Zancaner. Ti faccio notare che un ascoltatore dice: beh, già che ci sei, pagare il biglietto del traghetto già da ora. Grazie Livia Zancaner. Va bene, grazie anche a voi. Ma non te lo pago. Le nomine, poi arriviamo al giudizio sulle nomine. È giusto che le nomine siano così politiche, sono frutto di un accordo, in alcuni casi anche braccio di ferro, tra Gianni Letta e Giulio Tremonti, con la Lega che mugugna, anche se ha altri problemi in questo momento. Poi ci arriviamo, a mio avviso, vi dico subito, così faccio un disclaimer, sì, cioè quando un'azienda è partecipata dal Tesoro in quota del 20-30%, è giusto che la politica, e quindi il ministro del Tesoro o il sottosegretario alla presidenza, decida chi nominare. I soldi sono nostri, non c'è niente di strano. Però vediamo queste nomine intanto. Confermato Paolo Scaroni, amministratore legato dell'Eni. Confermato Fulvio Conti, amministratore legato dell'Enel. Due nuovi presidenti, e adesso ci arriviamo. E poi la novità invece riguarda il gruppo Finmeccanica. Le Poste nulla è cambiato, a Terna nulla è cambiato. Due nuovi presidenti sia per Eni che per Enel. Gianni Dragoni ha firmato oggi un lungo pezzo su questo del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni. Buonasera, ciao a tutti. Ti sentiamo un po' basso, se riesci a alzare la voce appena appena. Allora, le prime, Eni ed Enel, era scontata la riconferma, soprattutto negli ultimi giorni, di Paolo Scaroni e di Fulvio Conti. C'è chi ha voluto vedere, però tu scrivi oggi di un morbido segnale di discontinuità, o tiepido, adesso non ricordo a memoria, nel correggimi, visto che tu sei, mi puoi dare la versione originale, nell'ingresso di due nuovi presidenti per quello che riguarda l'Eni, e mi riferisco a Giuseppe Recchi, e per quello che riguarda l'Enel, Paolo Andrea Colombo. Discontinuità anche per l'età? Beh, anche per l'età, perché i due nuovi presidenti dell'Enel e dell'Eni hanno uno 50 anni, Colombo, 47 anni, l'ingegnere Giuseppe Recchi, presidente dell'Eni, la più grande società italiana per fatturato, per capitalizzazione di borsa, 70 miliardi di euro, e quindi sono anche, diciamo, dell'età inconsuete, semmai sono più dell'età da giovani amministratori delegati. Gli amministratori delegati di entrambe queste società hanno, diciamo, insomma, più, qualche anno più dei 60, quindi sono ancora, diciamo, pienamente operativi. Il segnale di discontinuità morbido, come ho scritto, per non dire soft, per usare una parola italiana, però è evidente, è visibile, soprattutto perché i due amministratori delegati uscenti, che sono in carica entrambi da 6 anni, avrebbero preferito, e diciamo attraverso i mezzi a disposizione hanno cercato anche di farlo, rimanere in tandem con i presidenti che avevano, i quali erano da 9 anni, perché anche per magari non modificare consuetudini abitudini, convivenze che con un cambio di presidente possono sempre cambiare, quindi anche se un nuovo presidente non ha poteri di gestione, ha però un ruolo, dei rapporti sia con il ministro dell'economia sia con altri ambienti governativi, Paolo Colombo ce l'ha anche con Berlusconi, che possono mettere, diciamo, creare una discontinuità e magari sì, creare un'attenzione interna, insomma, possono creare delle condizioni perché l'amministratore delegato sia meno a suo agio di prima. Allora, ripercorriamo. Da un lato è giusto ricordare a chi ascolta che di solito l'amministratore delegato è più giovane del presidente e non viceversa, come in questo caso, perché l'amministratore delegato è quello che ha i poteri operativi veri e propri, no? Amministra con delega per conto del consiglio di amministrazione. Il presidente, soprattutto nelle partecipate, ha sempre avuto un ruolo più di rappresentanza, no? Un po' più rappresenta, sì, rappresentanza, due gruppi enormi come Eni e Enel, ma anche coordinamento, anche l'Enel, cioè, insomma, di garanzia, chiamatelo come volete, ma non operativo. Ecco perché di solito l'amministratore delegato è più giovane, il presidente è una carica un po' più anziana. Tu dici, questi due presidenti in realtà, anche per la loro età, anche per la loro formazione, non sono semplicemente una nomina così di garanzia, ma potrebbero avere un ruolo leggermente più operativo. C'è chi ha detto, attenzione però, il vero presidente pesante in questa partita non sono né Colombo né Recchi, ma è Guarguaglini, che invece ha rinunciato, e qui andiamo su Finmeccanica, alla carica di amministratore delegato, l'ha presa Orsi, numero uno fino ad allora di Augusta Western, però resta un presidente di peso. Sei d'accordo oppure invece il ragionamento vale su tutti i presidenti? Guarguaglini è certamente un presidente di peso perché avendo per 9 anni guidato con pieni poteri sia da presidente sia da amministratore delegato la Finmeccanica, ha dei rapporti nel settore in tutto il mondo con governi, militari, grandi aziende, anche quell'ambiente che nel mondo della difesa delle armi è importante, i servizi segreti, e quindi è una figura che anche solo se, diciamo, fosse dentro un nuovo consiglio di amministrazione senza particolari deleghe sarebbe rilevante. Certo, la gestione in questo caso sarà affidata al nuovo amministratore delegato Giuseppe Orsi, che ha 65 anni, che viene dall'azienda più brillante del gruppo, l'Augusta Western, quindi anche egli è una persona molto introdotto anche sì, negli Stati Uniti, quindi sarà una coabitazione, diciamo, tra due caratteri forti. Ecco, di questo magari parliamo anche dopo il GR, perché poi vorrei sentire un commento anche più generale. Mi chiedete con insistenza di Banca Intesa. Allora, Banca Intesa oggi in borsa ha fatto 0,00, non sto scherzando, se non è invariato questo non so cosa lo sia. Confermato l'aumento di capitale che verrà, che Intesa San Paolo varrà oggi, il che porterà il Core Tier 1, cioè il rapporto tra patrimonio e prestiti, diciamola così, dall'8% al 10%. Nel consorzio di collocamento e garanzia sull'aumento di capitale da 5 miliardi ci saranno anche i cugini e concorrenti di Unicredito. Adesso c'è il GR 349-238-6666, il numero per i vostri sms, poi torniamo sulle nomine e sulle modalità e infine chiudiamo con l'Ocse. Focus Economia. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Chiudiamo l'approfondimento adesso sulle nomine e poi parliamo delle previsioni dell'Ocse, dei dati dell'Ocse di oggi sui primi 3 mesi dell'anno. Meglio di previsto la crescita economica nei G7, intorno al 3% anche nel secondo trimestre. L'Italia cresce quasi un terzo, cioè l'1% nei primi 3 mesi, l'1,3% previsto in questi 3 mesi, da qua fino a giugno. Gianni Dragoni, però, ci chiedono gli ascoltatori. Passaggio generazionale, beh, direi che il passaggio generazionale sui presidenti c'è stato, perché sono tutti giovani e nulla da dire. Quelli di Eni ed Enel, sì, 51 anni Colombo e Recchi è del 47 Recchi, per cui giovani sono giovani. I curricula dei due presidenti, Recchi e Colombo. Recchi è ingegnere e viene dalla General Electric. Si viene dalla General Electric Sud Europa, cioè ha un incarico, diciamo, di quasi di istituzionale, e saprei dire anche di rappresentanza, anche lobby più che gestionale d'azienda, in un'area in cui General Electric ha più di 10.000 persone, in particolare in Italia la General Electric ha il nuovo Pignone di Firenze, che è un'industria che proprio l'ENI ha venduto nel 94, quando Recchi aveva meno di 30 anni ma non era ancora in General Electric. Mentre Colombo? Colombo è un commercialista, diciamo, di lusso, con molti incarichi societari, qualcuno dice troppi, ma certamente una persona con molta energia, molto impegno, molto preparato, laureato alla Bocconi e un uomo di fiducia anche dei Moratti, e nel consiglio di amministrazione di Mediaset, quindi Berlusconi, è ancora nel consiglio di amministrazione dell'ENI, e come sindaco dell'ENI e presidente del collegio sindacale aveva in passato fatto le pulci anche ad alcune operazioni sul gas che dovevano coinvolgere Mentasti, un imprenditore vicino a Berlusconi, quindi una persona che ha dimostrato comunque di essere un mastino nel controllo, è per questo che credo sarà soprattutto Colombo un osso duro per l'amministratore delegato che si ritroverà, quindi per l'amministratore per Fulvio Conti. Intanto saluto, perché ci ha raggiunto in collegamento l'ingegner Franco De Benedetti, economista, editorialista del Sole 24 Ore, senatore con il centro-sinistra per 3 legislature, anche se eretico ogni tanto nelle sue posizioni. Buonasera, ingegnere. Buonasera. Adesso arrivo a lei. L'ultima domanda per Gianni Dragoni riguarda invece il rapporto Orsi-Guarguaglini. Il nuovo ministro legato di Finmeccanica viene da Augusta Westland, controllata del gruppo, azienda di successo, leader nella produzione di elicotteri, ha venduto anche il famoso elicottero alla presidenza americana, e Guarguaglini però che è l'uomo che ha creato la Finmeccanica come la conosciamo adesso. Gianni. Guarguaglini ha fatto un'intensa attività di espansione con acquisizioni, tra l'altro l'Augusta Westland, quando Guarguaglini è arrivato 9 anni fa, era per metà degli inglesi, certo, è stata poi comprata per più di 1,5 miliardi di euro, e anche questa maggior coesione dell'azienda ha contribuito probabilmente a rendere più efficace l'offensiva americana per vendere poi l'elicottero del presidente USA quando era presidente Bush, commessa poi tagliata. Sono due persone affermate nell'industria, nessuno, cioè neanche Guarguaglini vorrà accettare un ruolo di presidente di rappresentanza, ma benché non sia ancora ufficiale, si sa che per lui ci saranno alcune deleghe importanti, dovrà esserci tra i due, diciamo, la giusta dose di intelligenza, che certo non gli fa difetto, ma anche di flessibilità per coesistere e poter guidare l'azienda verso, diciamo, un maggior sviluppo e una maggiore efficienza di cui ha bisogno. Allora, resta con noi Gianni Dragoni, ingegnere ed ex senatore De Benedetti. Lei ha scritto anche oggi su Sole 24 Ore evocando il ritorno al mercato, il riferimento era alla legge Salva Parmalat e Antiopa, è quella che va a proteggere alcuni settori industriali. Possiamo tenere assieme i due ragionamenti? Cioè, se io gli dicessi che da un lato è giusto che le aziende private siano contendibili, perché è solo se sei contendibile sei efficiente, e poi voglio dire, se non ce la fai a crescere, se non hai le dimensioni, se non trovi la cordata, arriveranno gli stranieri, e dall'altro però è giusto che nelle aziende partecipate dal tesoro le nomine siano politiche, direi una bestialità? Ma scusi, è ovvio che nelle dipende cosa vuol dire politiche, nel senso che sono fatte dalla politica, e ci mancherebbe, voglio dire, è titolare normalmente è chi ha il controllo, chi detiene il controllo dell'azienda ha anche l'onore e l'onere di nominare gli amministratori, di nominare i capi azienda, di presentare la lista di maggioranza, e quindi in quella lista c'è dentro il capo azienda. Quindi questo mi sembra che le nomine spettino al governo, non lo nega nessuno, dal momento che le aziende sono controllate dal tesoro. Il problema è se è giusto che siano controllate dal tesoro, ma questo lasciamo perdere, non è certo il momento di questo, di parlare di privatizzare una di queste tre grandi aziende. Piuttosto il problema è quello di evitare che la politica faccia delle incursioni nei terreni che non sono suoi, e che è bene che non siano suoi. In modo particolare sulle regole, questa è la cosa peggiore che è stata fatta. Ma prima parliamo delle cose migliori, perché mi sembra che questo fosse il tono dell'intervista. No, ma cioè, poi mi interessano anche le regole. Allora, le cose migliori e invece la violazione delle regole. Su queste nomine non c'è proprio nulla da dire, nel senso che sono delle nomine. Tremonti ha voluto, secondo me, dimostrare che forse non ha voluto dimostrare niente. Io stimo Tremonti, penso che lui abbia seguito il suo, non ci sia nessuna forzatura su di lui, ma casomai sua su altri. Ha affermato che capo della, un criterio, diciamo, di manager nittiani, si usa questa evocazione di quelli che erano i manager delle prime industrie di Stato, quando c'era Nitti al governo negli anni prima della Grande Depressione, ecco. E quindi sono personaggi a tutto tondo che, diciamo, che avrebbe potuto nominare un privato, ecco. Un titolo di merito. In particolare io conosco bene Giuseppe Recchi, che è un ragazzo, io l'ho conosciuto in Italia è un ragazzo. Quello che è interessante, la cosa interessante sarà vedere in tutti e tre i casi come si sviluppano i rapporti tra l'amministratore delegato e presidente, perché questo ci sono tutti gli elementi perché facciano team, però è comunque un rapporto a volte delicato, ecco. Cioè non sono più i presidenti. Non stiamo a evocare le cose che capitano nella più grande azienda privata italiana, ma società privata italiana, ma insomma. Quindi per la prima volta, diciamo, rispetto ai presidenti precedenti, mi riferisco a Poli per l'ENI, a Gnudi per l'Enel, questi hanno un profilo un po' più operativo. Mi sembra che su questo sia lei che Gianni Dragoni siate Anche per l'età. Anche per l'età, beh, giusto, ma l'età, cioè, è chiaro. Adesso io non so bene, ma più o meno, diciamo, ho l'impressione che Giuseppe Recchi sia più giovane di Scaroni. Beh, assolutamente, adesso sento uno togliere a Scaroni a 47 anni, per cui insomma... Scheroni ha superato i 60, se non ricordo male. Detto ciò, io ringrazio Gianni Dragoni. Vorrei capire con lei invece, Ingegnere De Benedetti, perché invece il decreto del governo, quello salva Parmato, anti-OPA, va a violare le regole, perché poi lo chiederò anche al direttore del centro studi dell'OCSE, al capo economista dell'OCSE, Piercarlo Padom, che sarà in collegamento con noi. Mi dia un minuto di pazienza, c'è il traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, all'ingegnere De Benedetti, volevo capire con lui, visto che queste nomine lei le ha applaudite, devo dire che l'età dei presidenti è giovane, devo dire che insomma alcuni scrivono al 349-238-6666, la Lega è rimasta a bocca asciutta. Ecco, questo mi interessa meno come ragionamento, perché... un conto è che la nomina la faccia il Ministero del Tesoro e il Governo, un conto è parlare di lottizzazione. Questo, De Benedetti, possiamo essere d'accordo, sono due cose diverse. Ecco, perché si è parlato di lottizzazioni e, diciamo, siccome ci sono delle altre nomine, certo. Ecco, è un tema da tenere sempre presente e da guardare con attenzione. Da evitare. Perché non è, applaudendo a queste nomine, speriamo che continui così per il futuro. Ecco, mi dice cosa non va nel decreto salva Parmato antiopa. In generale, quando prima del decreto salva Parmato, il decreto cosiddetto salva Parmato dice: e tu cambia le regole della data per l'assemblea. Cioè dice: se tu hai dato questa è una regola, la data dell'assemblea, una volta che il consiglio di amministrazione l'ha fissata, è quella, e tutto il mercato sa che è quella e si orienta di conseguenza e agisce di conseguenza. Andare d'imperio a spostarla, quando poi questo vuol dire dare spazio alla creazione ad azioni che si oppongono all'acquisto, alla cosiddetta scalata di Lactalis, perché poi proprio veramente scalata non è, perché non c'è un'OPA. La seconda cosa è questo decreto che è stato fatto per il fondo salva imprese, per entrare, prendere partecipazioni in aziende strategiche, senza definire che cosa è strategico, e quindi voglio dire, tra l'altro senza neanche definire bene che cosa è strategico, quindi lasciando una indeterminatezza totale. Allora, lei mi dica, se c'è qualcuno che vuol venire in Italia a fare un investimento comprando un'azienda, ma lui dice, scusi, io non so che cosa mi aspetta, perché c'ho un cannone puntato, armato, con le munizioni, e non so se sparerà, se non sparerà, in che direzione, non sa niente. Ma questo, il mercato e gli operatori del mercato hanno bisogno di certezze e di regole, ma di certezze, che ci siano le regole, ma che si sappia che le regole vengono osservate e che non vengono cambiate in corsa. Mm-hmm. Sì, diciamo ce n'è un'altra che è peggio, sì, prego. Ed è quella delle leggi sull'OPA, che danno, adesso io questo non l'ho letta esattamente, l'ho solo letta per messaggini, messaggi che ho ricevuto, quindi non ho letto il testo cartaceo, per meglio dire. Ma darebbe alla Consob il diritto di modificare le soglie di OPA se lo ritiene necessario. Ecco, allora dico, un operatore prima di fare un'operazione, questo vuol dire vuol dire bloccare o bloccare con interferire pesantemente, certo, nel mercato per il controllo. Allora, io ringrazio l'ex senatore e ingegnere Franco De Benedetti, perché ne ha scritto anche oggi in maniera molto chiara su Sole 24 Ore. Personalmente noi siamo contro qualunque regola che vada a rendere meno contendibili le imprese italiane, pur sperando sempre che le imprese italiane restino italiane, se ci sono le cordate, se ci sono i soldi, se c'è la volontà, e se no se le comprasse il migliore. Grazie intanto a Franco De Benedetti. Grazie, buonasera. Però vorrei girare la stessa domanda, poi parliamo dei dati previsionali di oggi, al capo economista dell'OCSE, in collegamento con noi da Parigi, Piercarlo Padovan. Dottor Padovan, buonasera. Buonasera. Lei è un economista, è stato del Fondo Monetario. Che idea, lo chiediamo a tutti in questo periodo, da ex primi ministri a ministri dell'economia. Che idea si è fatto della legge salva Parma? Perché il governo Tremonti dice, insomma, ce l'ha la Francia, facciamo il testo francese, lo portiamo addirittura in francese, detto da Cernobbio sabato. Così l'Europa non potrà dire niente. Simul stabent, simul cadent. O vale per noi e vale per la Francia, o se non vale per noi non vale neanche per la Francia. Prego. Ma ci sono vari aspetti di questo. Il primo è il governo invoca il principio della reciprocità. Se ce l'ha un paese, l'Unione Europea, il trattamento deve essere uguale per tutti. Quindi se questo è ottenuto consensualmente, bene, se no bisogna prendere delle decisioni. Però al di là di questo noto due cose. Uno, che è difficile capire, questo lo diceva mi sembra anche il senatore Benedetti prima, capire esattamente cosa si intende per industria strategica, perché ci sono molti modi di intenderla. È più difficile concepire Bulgari come un'industria strategica di quanto non sia, che ne so, Finmeccanica per esempio. Terza cosa, strategica per le mogli soprattutto, ma insomma, non per un paese. Certo, ecco. Ci sono vari modi, dicevo, di definire strategico, però sarebbe, e sono d'accordo, importante capire che cosa vuol dire di fatto. Però poi vorrei notare anche una cosa, che a volte ci si dimentica che quando si dice l'Italia non è competitiva, e un'indicazione di questo è il fatto che non ci sono investimenti che dall'estero vengono in Italia. Adesso che ci sono interessi importanti dall'estero per comprare imprese italiane, ci si lamenta. Quindi mettiamoci d'accordo su come vogliamo definire la competitività di un paese. In linea di principio a me piacerebbe che non ci fossero restrizioni agli investimenti di capitale, perché queste sono una fonte di accrescimento e di redistribuzione della ricchezza. Quindi la vera battaglia si gioca sul fatto veramente di essere competitivi, e quindi di rendere il paese attraente per gli investimenti esteri. Questo secondo me dovrebbe essere il vero dibattito. Allora, io poi aggiungo che, anche per rispondere ad alcuni ascoltatori, che tifiamo da sempre Italia, tifiamo Italia anche nel caso Parmalat, però un conto è organizzare, come sta cercando di fare Banca Intesa San Paolo, una cordata di imprenditori del settore agroalimentare, Ferrero vuole, Barilla vuole, e trovare qualcuno che sia interessato a acquisire una quota rilevante della Parmalat. Altra cosa, a mio avviso, è bloccare l'operazione dei francesi di Lactalis dicendo che il settore del latte è strategico, perché lì iniziamo a non capire più cosa sia strategico. In molti paesi strategico è il settore dell'aerospazio difesa, perché ha i contenuti tecnologici che possono interessare paesi, diciamo, pericolosi. E il settore dell'energia, e anche su questo mi sembra che ci siano pochi dubbi. Noi abbiamo rinunciato al settore delle telecomunicazioni come strategico, tant'è che l'abbiamo venduto in parte a Vodafone, Omnitel, in parte privatizzato e scalato 2-3 volte, abbiamo ceduto anche le controllate in Argentina, insomma, secondo me sono più strategiche le telecomunicazioni del latte, ma è una mia opinione. Direttore Padova, mi dice invece dei dati che oggi voi avete diffuso, eravate cautamente ottimisti, cioè i G7 crescono più delle attese, sì. Anche l'Italia no, però resta il nodo della disoccupazione, mi aiuti a capire? La crescita c'è però ancora purtroppo non c'è un impatto significativo sull'occupazione, la crisi, che è stata una crisi molto grave, ha portato un forte aumento della disoccupazione. Noi sappiamo che quando ci sono recessioni molto gravi ci vuole un po' di tempo, diciamo un paio d'anni, prima che la crescita, quando riprende, si traduca in nuovi posti di lavoro. Quindi purtroppo stiamo osservando uno schema che già conoscevamo dalle esperienze del passato. L'Italia più 1 rispetto al 3% nei primi 3 mesi dell'anno dei paesi del G7, più 1,3 rispetto al 2,9 che voi stimate in questi 3 mesi. Novità oppure la conferma che cresciamo meno degli altri? No, è una conferma, direi. L'Italia cresce perché crescono gli altri, ma quando crescono gli altri l'Italia cresce di meno. Questa non è una novità. Temete tensioni, perché siete stati anche cautamente ottimisti in realtà sull'effetto petrolio e soprattutto sull'effetto aumento tassi. Avete detto non dovrebbe esserci un impatto significativo da un eventuale aumento dei tassi della Banca Centrale Europea. Sicuri? Allora, sull'impatto del prezzo del petrolio e delle materie prime si tratta di capire se e in che misura questi si tradurranno in un aumento dell'inflazione generalizzata, la cosiddetta core inflation. Per adesso la core inflation nei paesi avanzati rimane ferma e bassa, però ci possono essere dei mutamenti delle aspettative di inflazione, quindi che i mercati si attendano più inflazione che in passato, e di conseguenza questo potrebbe portare a un effettivo aumento dell'inflazione. Di qui la reazione delle banche centrali, la BCE ma anche la Federal Reserve, che comincia a essere più attenta e un pochino più preoccupata all'inflazione medesima e il possibile aumento del tasso di policy della BCE tra qualche giorno. Ora, quando vediamo questo, non ci dobbiamo dimenticare che per un periodo molto lungo i tassi di policy in Europa e negli Stati Uniti sono stati praticamente a zero. A zero, sì. Quindi questa è anche una situazione in cui si può dire che le banche centrali stanno cercando di tornare ad una situazione di normalità. Una situazione di normalità vede dei tassi di policy un po' più alti dello zero, perché se non sono più alti dello zero poi non si possono abbassare quando è necessario. Certo, a una situazione di normalità sui tassi, quindi non dovrebbe esserci, in una situazione normale, se ho capito il suo ragionamento, l'economia non ne può risentire dalla normalità. No, esatto, non dimentichiamoci poi che se l'inflazione dovesse stabilizzarsi a livelli più alti, ci sarebbero effetti negativi sulla crescita, perché i redditi reali potrebbero essere colpiti anche in misura significativa. Quindi non dobbiamo fare il legame meccanico tassi più alti minore crescita, perché non è questo il caso. No, le dice con questi livelli di tassi. Grazie al capo economista dell'OCSE Piercarlo Padoan in collegamento con noi da Parigi. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.